occhi e poi guarda dentro te. Scoprirai se vuoi che una via c'è per resistere in un mondo che non si ferma e ascolta mai.